Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di due libri di economia. Il primo si intitola Era il mio paese e l'autore è Eugenio Benettazzo. Buonasera, dottor Benettazzo. Salve, buona serata, un saluto a tutti i radioascoltatori. Era il mio paese, il futuro che attende l'Italia. Poi parleremo di un altro libro di Mara Monti, giornalista del Sole 24 Ore, L'Italia dei crack, vittime, artefici e mandanti delle truffe finanziarie degli ultimi anni, edito da Newton Compton Editori. Invece il libro di Benettazzo con cui iniziamo è dedicato al, diciamo, allo scenario in cui si trova l'Italia, uno scenario complesso perché se ne parla tanto in questo tempo, e il titolo Era il mio paese indica una visione un po' pessimistica, possiamo dire così, dottor Benettazzo? Oppure possibilistica, che è un'altra variante del mood che dovremmo avere noi italiani, visto quello che sta accadendo in questi ultimi mesi, che denota la turbolenza sul nostro paese. Ecco, lei ha iniziato a scrivere nel 2006, è saggista economico, guru finanziario, il primo libro si chiamava Duri e Puri, poi è passato attraverso un pamphlet che si è chiamato Bancarotta, un altro pamphlet si intitolava L'Europa si è rotta, adesso si è rotta anche l'Italia. Ecco, diciamo che i miei lettori si devono augurare che questa volta mi sbagli nelle mie analisi, perché se si verificheranno al pari degli altri testi, non penso che il futuro per questo paese sia particolarmente radioso, soprattutto per chi è giovane o adolescente. Problemi ce ne sono, lei li mette in chiaro nel suo libro, dà anche delle ipotesi di soluzione. Mi sembra che i problemi forse possono essere condivisi, le ipotesi di soluzione un po' meno, però il problema è fare qualcosa per questo paese. Ma vede, si sente tanto continuamente parlare che bisogna fare le riforme, dobbiamo accelerare le riforme, dobbiamo iniziare le riforme. Ma fare le riforme in Italia, che potrebbe sembrare anche una proposta particolarmente positiva, tra l'altro ben speranzosa, ha delle conseguenze drammatiche per la maggior parte della popolazione, perché fare le riforme in Italia significa levare privilegi a milioni di italiani. Non sto parlando della classe politica, sto parlando di privilegi sul piano previdenziale, medicale, assistenziale, sociale, lavorativo, industriale, cioè tutto quel meccanismo di protezionismo sociale a cui siamo stati abituati in 20-25 anni è destinato con amarezza ad essere drammaticamente ridimensionato. Questa è l'unica exit strategy che abbiamo, assieme a quella di finalmente ripristinare, rilanciare una politica industriale per il paese che manca ormai da quasi un decennio. Quindi siamo un paese di privilegi diffusi, di privilegi in cui è compresa la maggioranza dei cittadini, però nelle sue proposte lei parla proprio di iniziare a togliere quelli che sono i privilegi forse più gravi, forse più grossi, forse più importanti, che sono quelli per la classe politica. Propone di abbattere del 75% gli emolumenti e i compensi ai parlamentari, ai consiglieri regionali e comunali. E mi sembra una delle proposte più difficili. No, in realtà quella più difficile è forse l'accorpamento amministrativo a seconda dei bacini di utenza o di cittadini e contribuenti, che quella forse è più determinante sul piano, come riverbero sul piano economico. Alla fine cioè, i privilegi che ha la nostra classe politica, che viene tanto odiata e denigrata, non sono altro che uno specchio dei privilegi che hanno gli italiani, di cui oggigiorno siamo talmente abituati che non ci facciamo neanche più caso. Ripeto, non è una lettura, è un'analisi fatta con l'idea di mettere sul banco degli imputati la destra, la sinistra, il centro, la Lega, o prendersela con determinati dipartimenti di Stato che non rendono, come per esempio il Ministero del Turismo o quello delle risorse agricole. La chiave di lettura è che per il nostro paese servirebbe un cosiddetto governo tecnico, possibilmente non imposto dall'alto, che si preoccupi di iniziare questa fase di ristrutturazione che io definisco coatta. Vedremo un po' quale sarà il nostro futuro, quale sarà il futuro che attende l'Italia secondo il suo libro, un libro che, lo ricordo, peraltro comprende alla fine anche il discorso che Steve Jobs fece ai laureati di Stanford, e il libro è stato chiuso prima della morte di Jobs, quindi in un certo senso profetico. Poi se ne è parlato molto, ma il testo integrale è in appendice a questo libro. Grazie a Eugenio Benettazzo, abbiamo parlato del suo libro Era il mio paese, il futuro che attende l'Italia, edito da Baldini e Castoli, sono 134 pagine per 12,90 euro. Grazie. Arrivederci, a presto. Ed ora parliamo del libro di Maramonti. Buonasera Maramonti. Buonasera Gianfranco e buonasera ai radioascoltatori Radio 24. Maramonti, una collega del Sole 24 Ore, l'Italia dei crack, questo è il titolo del libro, vittime, artefici e mandanti delle truffe finanziarie degli ultimi anni, edito da Newton Compton Editori. Un libro che è diviso in capitoli, tanti, forse un po' troppi, perché si parla di tutte le crisi finanziarie che si sono susseguite nella realtà italiana e che hanno interessato da vicino qualcosa come 500.000 di risparmiatori. Esattamente, esattamente. Diciamo che i casi più emblematici che sono nella memoria di tutti sono quelli della Parmalat e quelli della Cirio, ma se questi sono i casi che hanno toccato migliaia di risparmiatori, ce ne sono anche dei minori, ma che hanno fatto ugualmente danni, come appunto il caso Giacomelli, il caso Finpart, la Veggia. Casi che comunque hanno coinvolto risparmiatori che avevano sottoscritto le obbligazioni di queste società, che al momento del default, ma non solo perché non tutte sono fallite, sono trovate però con carta straccia, e da allora purtroppo i risarcimenti sono stati scarsi, se non in pochi casi, come appunto il caso della Parmalat, dove invece si è riusciti tra i processi penali e i risarcimenti civili a rimborsare una buona quota di quanto era stato investito inizialmente. E anche a risanare la società, che poi è stata venduta ai francesi, ma una società ormai risanata, che quindi è uscita anche dalle secche della crisi e dalle secche del fallimento. Però quindi Cirio, Parmalat, Freedomland, casi, come mai sono sorti questi casi in Italia? Carenza di regole, carenza di controlli o eccessiva furbizia di chi ha condotto queste aziende? Beh, diciamo che sono stati anni in cui da un lato c'è stato il boom della new economy, come appunto il caso Freedomland, il caso Algol, il caso Finmatica, dove molte società che appunto si erano quotate in borsa avevano avuto delle performance borsistiche strabilianti. Però poi diciamo il mercato ha girato negativamente, specialmente dopo l'11 settembre, e quindi quando la società va in difficoltà si cercano degli escamotage non sempre leciti, come appunto i casi dimostrano, per trovare una soluzione, per mostrare bilanci in ordine e riuscire a convincere le banche a continuare a finanziare la società. Ci sono poi invece casi più eclatanti, come appunto il caso Parma, dove per anni si è mantenuto coperto quello che era la reale situazione finanziaria della società, e qui diciamo che forse in molti delle autorità o dei soggetti che dovevano controllare in realtà non l'hanno fatto o hanno chiuso un occhio. Comunque diciamo che quest'anno è stato l'anno delle grandi sentenze sia per Cirio che per Parmalat, perché i processi per bancarotta hanno già avuto una sentenza e i responsabili sono stati condannati pesantemente. Ricordiamo che tra tutti Callisto Tanzi, che ha una condanna definitiva a 10 anni e ora in carcere. Ecco, ma l'importante sarebbe stato evitare questi crack, e Orazio Carabini nella sua introduzione scrive: non fanno bella figura gli esimi personaggi chiamati a far parte dei consigli di amministrazione dei corrieri sindacali delle società incapaci di percepire l'enormità delle frottole messe in giro dagli immaginifici mariuoli. Tutto il sistema di controlli esce a pezzi da queste vicende. Un'ultima domanda allora, Maramonti: qualcosa è cambiato o proviamo ad aspettarci il prossimo crack? No, diciamo che qualcosa è cambiato. C'è da dire che il risparmio è un asset molto importante per questo paese, lo sta dimostrando appunto in questo periodo di gravi difficoltà e di grandi crisi, e credo che si debba veramente fare tutto il possibile per salvaguardarlo, sperando che appunto casi di questo genere non succedano più. Quindi possiamo augurarci che il tuo prossimo libro sarà l'Italia della crescita, l'Italia del risparmio non tradito ma del risparmio salvaguardato. Lo speriamo tutti. Comunque, per chi vuole capire com'è avvenuto nel recente passato, cosa è avvenuto, quali sono stati i crack finanziari più importanti, può leggere L'Italia dei crack di Maramonti, lo ricordo e la ringrazio per essere stata con noi questa sera, giornalista del Sole 24 Ore, vittime, artefici e mandanti delle truffe finanziarie degli ultimi anni, edito da Newton Compton Editori, 280 pagine per soli 9,90 euro, un investimento che non vi tradirà, almeno questo. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, grazie a Guido Scotti in redazione, a Valeria Bernardi in regia, l'appuntamento è per sabato prossimo.